Storiacce d'autore di Raffaella Calandra. Quella è la scena principale in cui io scendo le scale, sto facendo una sorpresa per il compleanno a Salvatore e un suo amico, che già sapeva la relazione mia di Salvatore, per dispetto, che mi insulta. Ed è stata una scena come l'ho vissuta altre volte. Delle mie amiche mi hanno chiamata e mi hanno detta che adesso le stanno sfottendo proprio come nella scena del film. Transessuali che vengono insultati e aggrediti imitando gli attori di Gomorra, poliziotti veri che si fanno criminali credibili nella fiction, e il grande palcoscenico di Napoli che si rinnova nei suoi anfratti più difficili, dove fai fatica a capire dove finisce la realtà e inizia la sceneggiata. Napoli è un po' un palcoscenico, diciamo che cede spesso alla tentazione di diventare un po' teatrale. E quindi questo esaspera i toni. La fiction Gomorra ha avuto un impatto enorme. Una certa Napoli criminale, una certa Napoli di basso livello si sente in qualche modo sdoganata da un prodotto di questo successo. D'altra parte è noto come nei bunker dei camorristi latitanti vengono ritrovati copie del Padrino, DVD di Scarface o cose che saltano quel tipo di materia, insomma, ma credo che sia una cosa criminale che rimane nell'ambito criminale, non credo che esca da quell'ambito. Non mi è difficile immaginare un ragazzo, un uomo non criminale che si sente in qualche modo influenzato da prodotti come Gomorra. Che cosa ha visto Cennaro Maria Rosaria del Vomero, detta Vipera? Che cosa hai pensato mentre stavi morendo, mentre il tuo corpo meraviglioso, la fantasia di centinaia di uomini lasciava andare il tuo estremo respiro? Le domande che Maurizio De Giovanni affida al suo commissario Ricciardi, ora di nuovo in libreria con una Serenata senza nome, edito da Einaudi, potrebbero valere anche in una Napoli ben più contemporanea, per una violenza ripetuta contro transessuali uccisi, aggrediti o insultati. A Melito, ad esempio, propagine di quello che fu il principale mercato della droga, le viele di Scampia, ora che non c'è più, tutti raccontano che era un maschio dentro Giovanna Rivoli. Aveva asportato il seno e il suo abbigliamento si era fatto più severo. Col tempo le gonne erano sparite e i modi erano diventati più bruschi. Tutti sapevano che era maschio dentro Giovanna, e tra i tavolini del bar Blue Moon, ritrovo, secondo gli investigatori, degli affiliati del clan Amato Pagano, laddove si decideva chi doveva morire e chi aveva bisogno invece solo di una lezione, tutti rispettavano come una regina la fidanzata di Giovanna, che portava la sua fede all'anulare. Perché da tempo Giovanna aveva smesso di essere amasculona ed era diventata Is, forma dialettale e dispregiativa per dire lui. Un cambio di genere nel linguaggio che aveva significato anche un riconoscimento di status nel codice camorristico, e infatti da boss riconosciuta è stata poi ammazzata Giovanna, con un colpo al cuore e due alla testa. Forse dopo averla fatta inginocchiare e costretta a scavare la sua stessa fossa, chissà cosa ha pensato Giovanna mentre stava morendo, si chiederebbe ora il commissario Ricciardi arrivando sulla scena del delitto. Un ricordo, o meglio, una scena precisa, e invece subito tornate in mente ad altre trans, insultate, accoltellate, aggredite nelle stesse strade palcoscenico della più grande metropoli del Mediterraneo, la scena della seconda serie di Gomorra, la fiction. La voce galluca, senza farsi sentire, per poi fare scoppiare tutto il mio dolore. O dolore rovigliangulo e riccio! Tu sei Aricina di Stoi! Aricina lo cazzo! Aricina lo pesce! Ha ha ha! much. Deve preservare la fama di duro Salvatore Conte, o boss, e si costringe a vivere in clandestinità il suo amore per Nina, bellissima transessuale cantante neomelodica, accompagnandosi in pubblico con la sorella. La sua reputazione deve essere difesa, ma ci sono passioni che inutilmente si prova a soffocare o nascondere, e ci sono legami la cui intensità diventa pari solo alla violenza successiva, soprattutto in quei contesti dove la credibilità passa attraverso l'ostentata esibizione di mascolinità, e allora quei legami diventano motivo rabbioso di attacco. Io credo siano più vicine Vipera e la Lina di Gomorra di quanto sia poi con la strada e con quello che accade in strada, perché sia Vipera, che lavorava negli anni 30 in questo luogo, in questa casa chiusa, sotto controllo sanitario, sotto controllo anche sottoposto a un certo servizio d'ordine, tanto è vero che quell'omicidio fa molto scalpore ed è ripreso da un caso di cronaca dell'epoca, fa molto scalpore proprio perché avviene in un luogo protetto. E la stessa Lina non esercita la prostituzione in Gomorra, ma è una persona innamorata di un uomo che è innamorato di lei, ma che non ha il coraggio di esprimere la propria emozione e il proprio amore, perché è prigioniera di convenzioni e di strutture che gli impediscono di esercitare liberamente questo sentimento, di applicare serenamente questo sentimento. Invece, purtroppo, come dicevamo prima, queste ragazze, questi transessuali sono in strada, esposti anche alla mancanza completa di qualcuno a cui richiedere aiuto in caso di necessità. Adesso l'omicidio viene chiaramente brutalmente a galla ed è di tutta evidenza, ma le violenze, gli sfregi, gli insulti, le percosse, gli insulti, le condizioni di schiavitù in cui vengono a trovarsi queste persone, che fanno meno scalpore giustamente di un omicidio, sono lo stesso gravissime socialmente, cioè sono lo stesso delle situazioni esecrabili ovviamente e particolarmente atroci. Quindi direi che è più vicina Vipera a Lina di quanto siano entrambe a questi tristi episodi della strada. Ecco, Maurizio De Giovanni, e la stessa intensità con cui anche appunto in Vipera, ma si racconta un'intensità di un legame che pur nella sua particolarità è molto forte, tra quella dei clienti che erano così legati a questa donna bellissima, questa intensità di questi legami poi degenera in una intensità altrettanto forte di violenza e di insulti. Ancora una volta queste aggressioni della stretta cronaca napoletana sono avvenute citando e cercando di riproporre una scena in cui questa bellissima transessuale viene insultata volgarmente, platealmente da tutti, cioè c'è una anche parità di intensità nell'attrazione nei confronti di queste donne pari alla violenza con cui ci si scagliano contro, è esatto? Sì, confliggono i sentimenti e le emozioni con le strutture sociali. Confliggono quello, le parole che si dovrebbe dire a quelle che si devono dire, cioè confligge l'essere col dover essere, insomma, è naturale. Questo è sempre avvenuto con la prostituzione, è una cosa di tutta evidenza. Quando poi c'è anche l'opportunità di utilizzare una qualche frase o una qualche modalità universalmente nota come una scena di una fiction di successo, io ci tengo a ribadire che la fiction non ha nessuna colpa, ovviamente, non ha nessun ruolo in questa situazione, perché un coltello può servire a tagliare il pane e uccidere qualcuno, sarà sempre colpa della mano che lo muove e non del coltello, però è naturale che nel momento in cui ci si può far belli di una situazione universalmente nota si utilizza quella. È come parlare del tifo quando si discute dell'omicidio di un ultra di questo ragazzo Emanuele Affermo, no? Il calcio non c'entra niente, il tifo non c'entra niente, il fatto che fosse un esponente del movimento ultra non c'entra niente, qua siamo di fronte a un assassino, punto e basta. Cioè la violenza non ha giustificazioni né deve avere un pubblico, mai. La violenza non ha un pubblico, la violenza non è esaltata da nulla, la riproduzione di una fiction non può essere un modello, anzi deve esserci un modello contrario. La ficzione narrativa di Gomorra propone modelli che entro i 40 anni muoiono ammazzati o vanno in galera o devono vivere chiusi in un bunker. Non credo che sia lecito immaginare un'imitatività di modelli del genere. Non nelle strade dove il sole inonda di luce le case e il Vesuvio incornicia una delle cartoline più riprodotte al mondo. Non è qui che il modello di Gomorra trova seguaci, come racconta Maurizio De Giovanni. Ma basta allontanarsi neanche troppo dal cuore nobile della città per entrare nelle sue budella più sinuose, per ritrovare anche esteticamente emuli dei protagonisti della fiction. Già in questi vicoli che alla Ortesi ispirarono Il mare non bagna Napoli, unico caso di città con la periferia nel suo centro, già qui tutto cambia. E non capisci più dove fiction e dove realtà, dove la riproduzione di certi linguaggi e di certi look resti solo un vizio estetico e dove invece sia segno di un'appartenenza più profonda a quei modelli. È un dubbio che aumenta ancor di più quando si approda poi nelle aree più distanti dal centro, in quelle periferie anche geografiche. Non capisci più allora il confine tra la fiction e la realtà, esattamente come in quegli angoli della città dove bastano pochi gradini sottoterra, e non capisci più dove finisce il regno dei vivi e inizi quello dei morti. Cioè, come fai a pensare che la tua figlia sta a mezzo e succede questo? Possibile. Ma io sono grande, no? Sono fidanzata. Io scendo, ma quando mi ritiro non passo per qua. Mi faccio il giro per fuori, per Capodimonte, andi là e me ne salgo. Perché è impossibile, può passare con qualche capo. Perché avete paura la sera a passare? Sì. Perché quella notte che è morta Jenny, io sono passata alle 4:10 per là. E c'era il coprifuoco, pur che non mi facevano niente, ma penso che paura me la mettono. Che vedo che io ne vinto, ma sono mostro, diavolo, un corpo. E quello che fanno, sparano, non è normale sparare. Alla maglietta attillata, un generoso décolleté ben in vista e il gel a bloccare in rigide acconciature i capelli. Alla stessa età di quegli stessi ragazzi che considera preda del diavolo, Lucy. Quelli che terrorizzano il centro storico di Napoli con quella che in gergo si chiama la stesa. Le scorribande a bordo di motorini con le armi in pugno, sparando su tutto per seminare terrore e lanciare messaggi. Messaggi di controllo e conquista del territorio. E poco importa se un colpo finisce per ammazzare un 17enne o se un agguato lascia a terra due corpi a poca distanza da un circolo e da una scuola. Il messaggio è quello che conta, e il messaggio spesso si serve di citazioni. Da una parte all'altra della città, dal cuore antico del rione Sanità ai crateri fumanti dei Campi Flegrei. Era in via Agnano la 22enne transessuale insultata, aggredita e poi accoltellata nel nome di Salvatore Conte. Come lei stessa poi racconterà nella denuncia, ha evocato la scena della fiction, diventata virale sui social con la sua volgarità chi l'ha aggredita, spalancando una porta in cui le pulsioni più incontrollabili si mescolano al richiamo dell'emulazione televisiva. Ma non è colpa di Superman se un bambino un giorno pensa di voler volare, avverte Maurizio De Giovanni, amato scrittore partenopeo che con i suoi commissari con puntualità scandaglia il fondo più intimo della vita nella sua città. La prostituzione è una forma di commercializzazione di sentimenti e di passioni, quindi è un territorio oscuro, un territorio grigio da un punto di vista proprio emotivo e sentimentale. Per cui è un momento, uno spazio in cui uomini esercitano i propri istinti in maniera necessariamente oscura. È un'imitazione dell'amore. Un'imitazione dell'amore che non è nel territorio dell'amore, ma mira soltanto alla realizzazione di un basso istinto e di un piacere. Chiaramente chi esercita la prostituzione è esposto a questa a questo lato oscuro, che può diventare violento. Per un uomo che vuole distinguersi, per vuole essere una sorta di uomo d'onore, il legame nei confronti anche di una donna che possa essere appunto una prostituta o che possa essere un trans è ancora più difficile in qualche modo da difendere, da tutelare o da rivendicare addirittura? Siamo molto lontani da un'integrazione completa, tranquilla e perfetta di tutti i tipi di amore nell'ambito del contesto sociale. Questo può raggiungere dei risvolti violenti in luoghi per istituzione violenti, come appunto l'ambiente delinquenziale, l'ambiente criminale, l'ambiente camorristico. Non credo sia facile nemmeno per un impiegato di banca o al catasto e portare a casa un transessuale e presentarlo come l'amore della sua vita. Purtroppo oggi come oggi siamo molto lontani dal riconoscimento di una definizione di amore che sia universalmente condivisa. Penso che chiaramente poi in certi ambienti il codice diventa ancora più duro, ancora più difficile. Io ricordo un bellissimo romanzo di Luigi Romolo Carrino che si chiama Acqua Storta, che parla proprio di questo, parla dell'amore di un camorrista per un suo accolito, amore ricambiato, ma che non può essere in nessun modo proposto perché contro ogni codice e loro rischiano la vita. La sanzione non è l'estromissione sociale, ma può essere la vita stessa in certi ambienti. Quindi è sicuramente vero, come è vero che esistono degli ambienti criminali per loro natura. Questo naturalmente non è emblematico di nulla, non può essere emblematico di una città, non può essere emblematico di un contesto sociale globalmente inteso. I criminali fanno i criminali e si comportano in maniera criminale anche da questo punto di vista. Io ho anche di amici così, ma purtroppo madre e padre che non lavorano, i ragazzi hanno bisogno di soldi, perciò cioè, qualcuno vuole ancora doppio quello che vuole. Alla fine il coraggio esce alla fine. Napoli è bellissima, però non ti può dare niente. Chiste. E in questo mettersi a disposizione, in questo essere al servizio do boss di chi comanda, cioè in questo essere pronti a fare tutto con la stessa superficialità, da rubare, a sparare, ad ammazzare, quanto incide pure il richiamo criminale di personaggi come i protagonisti di Gomorra? Cammini per le strade dell'unica città che ha la periferia nel suo cuore aperto e spesso riconosci sui visi di questi wappi, il più delle volte minorenni, i capelli rasati, le sopracciglia sottili e il ghigno già visto in TV. In una mescolanza totale di realtà e finzione per cui il criminale cita la serie televisiva per aggredire il transessuale e il poliziotto vero nella vita vera diventa criminale credibile nella fiction. Due dimensioni che si guardano e si specchiano a vicenda. Impari a ragionare in un altro modo, o forse riesci a ragionare in quel modo perché stai con i criminali quasi tutto il giorno quando lavori, e quindi è straniante. Quando interpreti questi personaggi e ti cali nel loro ruolo, devi avere bene presente che cos'è la filosofia di queste persone. Un modo di vivere che si manifesta con l'ostentazione della ricchezza, la violenza nei confronti degli altri, perché io sono più forte e ti devo dimostrare in ogni modo di essere più forte. Fammi degli esempi concreti presi dalla vita vera, diciamo. Io arrivo in auto in una zona dove magari non è permessa la circolazione, tutti nel quartiere, la stragrande maggioranza delle persone, che sono persone per bene, perché io ci abitavo e lo so, sono persone per bene, rispettano le regole, e c'è chi invece, per dimostrare agli altri che lui è al di sopra delle regole, che se ne frega tra virgolette dello Stato, infrange le regole vantandosi di questo. E lo scorazzare con i motorini e con le armi in pugno? Qua ci siamo noi, esistiamo solo noi. Quando passi in macchina, sei in divisa, sei con l'auto della polizia, ti guardano, ti lanciano questi sguardi di sfida, come per dire tu prova, vienimi a controllare, tanto io non ho paura, ti dico pure chi sono, ti dico quello che faccio, tanto non ho paura. Belli in fila lì, tutti impostati, che sia il bar o la sala giochi, o a fianco alle loro macchine, che spesso non sono le utilitarie che magari abbiamo noi perché viviamo del nostro stipendio, ma già a 20 anni ha una macchina che ti costa 40, 50, 60 mila euro, e se tu gliela togli perché magari ci sono delle irregolarità, loro ti rispondono tanto io domani me la ricompro, ed è così. Come nella stanza degli specchi può capitare di sentirsi disorientati, così ora che la realtà sia così profondamente mescolata alla finzione in diverse parti della città, molti hanno sentito di dover mettere in guardia dai rischi di questa confusione. Ma per dirla con Maurizio De Giovanni, non sarà mai colpa di Superman se un bambino vorrà provare a volare, né dello specchio se l'immagine riflessa anche mille volte è fatta di realtà e finzione, di vicoli e TV.